Il gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona giornata cari radioascoltatori. Oggi siamo all'Expo e trasmettiamo appunto da questo luogo oggi affollatissimo. Ebbene, parleremo di un argomento che è molto congeniale con l'Expo, perché consapevole è stato usato sostenibile tantissime volte proprio in funzione dei temi dell'Expo, ed oggi parleremo di spesa consapevole. Sì, perché anche nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, quando si dice vado a fare la spesa, in realtà si potrebbe aiutare appunto a sprecare meno. E mi rivolgo subito su questo argomento a un personaggio, Andrea Segre, che sono anni che combatte lo spreco, e gli voglio chiedere appunto questo. Caro Andrea, la spesa è il primo momento per combattere lo spreco, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, perché è un gesto, un atto quotidiano o meno che ci permette il rifornimento alimentare. Dobbiamo mangiare, acquistare i prodotti, visto che la parte di, come si chiama, autoconsumo, si chiamava una volta in realtà, per ciò che si produce e poi si consuma direttamente, ormai è ridotta a zero. E quindi dobbiamo rimparare forse a fare la spesa, perché è il primo atto, giornaliero o meno, che ci serve per non sprecare, per non buttare via i prodotti, per non avanzare il cibo. E forse, ecco, una riscoperta anche qui dell'economia domestica, che una volta si studiava a scuola e che ci insegnava alle nostre mamme non a fare la spesa, sarebbe molto utile, perché come se negli ultimi 20-30 anni lo avessimo disimparato. Quindi senz'altro la consapevolezza, la responsabilità è il primo passaggio, diciamo, per sprecare di meno. Tu dici quindi che l'economia domestica dovrebbe essere reinserita nei programmi scolastici? Ma guarda, adesso la chiameremo educazione ambientale e alimentare. C'è un lavoro, certo, che stiamo facendo con il Ministero dell'Ambiente e con l'istruzione, perché almeno rientri, diciamo, in quella che chiamiamo cittadinanza attiva, nell'educazione civica. In fondo, se ci pensi, è un capitolo della nostra educazione civica imparare a consumare i prodotti giusti, quelli che ci servono, a evitare i rifiuti, perché sprecando del cibo ancora buono si producono purtroppo ancora delle montagne di rifiuti che peraltro inquinano e ci costano. E poi mangiare bene, lo diciamo sempre, fa molto bene anche alla salute, oltre che al portafoglio. Bene, grazie Andrea di questa tua testimonianza. 800 24 00 24, per chi volesse telefonare sull'argomento, 349 238 6666, sms. Bene, abbiamo con noi uno chef che tra l'altro ha appena aperto un nuovo ristorante a Milano che si chiama Contrast, e lui tutte le mattine va all'alba o quasi a fare la spesa. Mattias Perdomo, buongiorno. Buongiorno Mattias. Davide, buongiorno a tutti. Tu pensi che andando direttamente a fare la spesa, appunto, al mercato, comprando quello che ti serve ogni giorno, si risparmia sui rifiuti? Ma assolutamente sì. Innanzitutto per noi cuochi è una fonte di ispirazione. Secondo, vediamo dei prodotti che stanno iniziando e quelli che stanno finendo, e lo vedi anche dai prezzi, per cui il fatto di comprare prodotti di stagione risparmi anche sul prezzo, perché se dobbiamo far arrivare gli asparagi dall'altra parte del mondo, senza ombra di dubbio, ci costano di più. Per cui andare al mercato è una fonte completamente di risparmio e di ispirazione. Ecco, volevo chiederti questo. Tu so che ci vai la mattina molto presto al mercato del pesce. Sì. Senti, ci sono delle regole da tenere presente quando si va a comprare il pesce? Molti dicono che vogliono appunto il pesce fresco e non sanno distinguerlo. Altri invece sostengono che ci sono pesci d'allevamento e non li distinguono dal pesce, chiamiamolo così, di mare. Ecco, ci sono. Tu hai qualche trucco per poter insegnare ai nostri radioascoltatori? Ma innanzitutto è cercare comunque di credo che alla base di tutto questo ci debba essere un rapporto di fiducia umano, che oggigiorno si sta perdendo molto questo. Siamo nel mondo della comunicazione e forse la comunicazione umana, quella a quattro occhi che si fida dell'altra persona, si sta perdendo. Allora, andando a questo punto, la cosa importante magari è andare a trovare il fornitore che uno si ci fida e si inizia a creare una relazione. Perché le cose hanno un valore al di là di un prezzo. per cui magari un rapporto umano ti crea, invece di un prezzo, quanto più caro lo paghi vuol dire che è più buono, non è vero. La differenza comunque de anche queste cose sul fatto di pensare che il pescato sia più buono che l'allevamento, ci sono allevamenti e allevamenti come in tutto, però credo che il fatto di andare a un mercato, andare alla fiera comunale o piuttosto al supermercato, sono crearsi comunque dei rapporti di fiducia con i fornitori, in cui ti vanno guidando nella spesa quotidiana. Negli ultimi anni abbiamo avuto tanto, negli ultimi 30 anni abbiamo avuto tanto, e come diceva prima il signore, abbiamo perso un po' la consapevolezza di spendere i soldi giusti per quello che dobbiamo consumare. E ritornare oggi c'è bisogno, perché c'è crisi mondiale, c'è tanto bisogno di ritornare indietro a rendercene conto che dobbiamo essere consapevoli e ragionevoli quando andiamo a fare la spesa. Ecco, ci sono dei pesci che sicuramente sono poco conosciuti. Pare che in Italia la conoscenza appunto del mondo del mare sia di 40 specie di pesce. Ecco, tu hai qualche pesce, diciamo, che costa poco rispetto ai vari che invece può rendere a tavola? Ma assolutamente, assolutamente sì. Il problema di tutto questo sono le mode. Pesci come la palamita, la letterato, il tombarello, come può essere il sugarello, cioè sono dei pesci poveri, dei pesci che si trovano nei nostri mari e vengono quasi scartati, vengono ignorati, dopo diventano moda e magari con dei chef che iniziano a proporli, la gente inizia ad abituarsi e iniziano comunque ad esserci un consumo maggiore. Sono dei pesci, tra l'altro, forse i più buoni, quelli che a me piacciono di più, la leccia, le sarde, insomma. E questi sono dei pescatori, sono loro che ci devono insegnare e istruire comunque in questo nuovo mondo, ma ce ne sono una marea infinita di pesci che possiamo consumare a un costo molto favorevole e trovando comunque dei sapori completamente diversi di quelli abituali. Bene, grazie a Mattia Sperdomo con Trust a Milano, quindi un ristorante aperto da pochissimi giorni. Mattias, lo avrete sentito dalla pronuncia, è un uruguaiano ma ormai da tanti anni in Italia che conosce molto bene il mercato italiano. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare di spreco, di vado a fare la spesa, ma vado a fare la spesa ha dentro di sé un significato molto importante. Vado a spendere e porto a casa e probabilmente faccio anche dello spreco. Allora cerchiamo di dare qualche consiglio utile. Allora andiamo in un piccolo paese, andremo in due piccoli centri per capire, perché abbiamo parliamo sempre di città, di supermercati, ma il problema riguarda un po' tutta Italia, non tutte sono città, ci sono anche piccoli borghi. Sentiamo quali possono essere le tecniche lì. Allora andiamo alla Crepa, al caffè La Crepa a Isola d'Ovarese, appunto in provincia di Cremona. Andiamo da Franco Malinverno. Buongiorno Franco. Buongiorno Davide. Allora Franco, tu tutte le mattine vai a fare la spesa. Ecco, voglio chiedere, c'è una tecnica, cioè tu ti porti un foglietto con scritto cosa devi comprare per non sprecare, oppure vai e così inventi anche il pranzo del mezzogiorno e della sera per il tuo locale? Sì, sia uno che l'altro. Prepariamo un bigliettino per le cose che ci servono, perché fanno parte della spesa del giorno, e in più stimola anche vedere i banchi che sia la verdura o che vada dal macellaio o che vada a prendere il pesce, mi stimola di inventare qualcosa di nuovo, ecco, o del giorno. Ecco, in più tu vai di persona. Teniamo conto del nostro orto, che prima raccogliamo le nostre cose e poi andiamo a fare la spesa, ecco. Ecco, ma tu vai di persona a comprare queste cose? Sì, io vado di persona. 9 volte su 10 io vado di persona, perché è importante instaurare un rapporto diretto con il fornitore, guardarsi in faccia, di essere fiduciosi e sicuri di quello che ci forniscono, oltre che la visibilità che guardiamo sul banco, ecco. Però è un bel rapporto avere... guardarsi, scambiarsi due parole è fondamentale. Anche dal punto di vista umano. Se capita qualche volta che non posso andare, lui mi porta la roba a casa ma me la dà giusta. Ecco, pare dagli ultimi dati contraddittori rispetto al passato che ci sia una ripresa di addirittura di piccole botteghe, e questo è un fatto molto, molto significativo nel senso anche del rapporto umano che sta succedendo contro ogni tendenza. Ma sentiamo Augusto da Verona, un radioascoltatore. Buongiorno Augusto. Ah, buongiorno signor Paolini, io l'ascolto con gioia e anche come umile allievo dei suoi suggerimenti. Però non mi sono trovato d'accordo quando lei ha parlato delle grigliate, ma più che lei i suoi gentilissimi ospiti, in quanto io, avendo vissuto per molti anni sul lago di Garda e avendo cucinato sempre alla griglia, io ho direi sempre rifiutato di usare carbone e carbonella, ma solo legno di olivo, le famose socche, come si dicono in veronese, che creano un profumo meraviglioso e danno al pesce una profumazione proprio della, del luogo, del mare, perché l'olivo è mare. Augusto, questa lei si riferisce a una trasmissione fatta un po' di settimane fa sul barbecue o sulla, diciamo, sulle cotture, colture alla brace. Bene, ognuno ha la sua idea. Abbiamo visto che durante quella trasmissione c'è chi usava un legno, chi un altro, chi usava la carbonella, per cui diciamo che è un fatto anche molto, molto personale. Ma continuiamo sempre a parlare, torniamo alla spesa consapevole, perché oltre all'inverno abbiamo anche un altro cuoco, un altro chef molto bravo che alla mattina si alza presto e va a fare la spesa direttamente. Buongiorno a Pier Giorgio Parini dell'Osteria del Povero Diavolo. Buongiorno Pier Giorgio. Ciao Davide. Ciao, buongiorno. Stamattina sei andato a fare la spesa? Sì, già fatto. E cosa hai comprato? Ci puoi raccontare la tua spesa di oggi? Vabbè, stamattina ho comprato dal macellaio un pochettino di carne per stasera, e poi vabbè sono andato nell'orto a raccogliere la verdura, e quindi abbiamo raccolto un po' di pomodori, un po' di carote, un po' di bietole, e mi volevo riallacciare a quello che si diceva prima. Secondo me il fatto di fare la spesa, soprattutto per quello che riguarda, a parte i ristoranti che di roba ne consumano tanta, soprattutto quello che si potrebbe fare a casa, ognuno potrebbe fare a casa propria, che è quello di, secondo me, di non comprare più in base alla quantità, quindi non chili di roba, ma numero. Quindi mi servono 3 pomodori, compro 3 pomodori, non compro un chilo di pomodori perché magari c'è un'offerta di, non so. Alla fine la spesa, secondo me, è molto inferiore. La spesa a fine mese, se uno tira, magari spende 2 soldi in più in quel momento, però a fine mese non butta via niente, non deve tenere la roba in frigo settimane, non deve riciclare tutto quello che rimane. Secondo me a fine mese invece i conti potrebbero tornare un po' meglio per tutti. Pensiamo anche che c'è molta persona che fanno la spesa una volta a settimana perché magari i tempi sono quelli che sono, specialmente in città, e lì credo che ci siano anche, come posso dire, dei marchingegni per poter conservare, perché oggi ci sono tanti strumenti per conservare, c'è l'abbattitore, ci sono i frigoriferi, ci sono i surgelatori. Ecco, secondo te, cioè comprare per poi conservare, è una cosa giusta o mi sembra che tu insista invece per comprare, diciamo, il fresco? No, io sono per comprare il fresco, anche perché molto spesso non ci pensiamo, però per esempio un congelatore caricato a pieno regime e che va di continuo e che magari è pieno, steppo di roba, consuma molto di più di un congelatore vuoto, ma molto di più di un congelatore, e questo si ripercuote sulla bolletta della luce, per esempio. Oppure, non so, comprare, mi viene in mente la cosa più banale che mi succede molto spesso, quando vado dal fruttivendolo, magari compro i limoni, io che lavoro in un ristorante ne compro 4, e magari una casalinga, che magari a casa sono in 2 o 3 o un nucleo, comprano magari 2 reti di limoni, perché magari 2 reti di limone costano come 4 limoni, però poi di quella rete non so quanti poi effettivamente ne verranno usati, anche perché è un numero importante. Infatti sono... arriviamo allo spreco, abbiamo detto esatto. l'altro angolo appunto della spesa consapevole, proprio lo spreco. Ma sentiamo un altro radioascoltatore, Emiliano, dalla provincia di Massa Carrara. Buongiorno Emiliano. Buongiorno. Prego. Allora vorrei, io sono un ristoratore, tutti i giorni mi trovo quindi a fare la spesa nei vari punti vendita, supermercati, eccetera, eccetera. E da tempo mi faccio questa domanda, perché purtroppo naturalmente tutte le aziende che producono qualcosa devono poi alla fine riuscire a venderlo ai vari clienti. Quello che mi ha sempre stupito è tutto lo spreco di marketing, di pubblicità che c'è proprio per spingere ad acquistare un prodotto o un altro, e addirittura quello che c'è tra i vari supermercati, tra i vari centri commerciali, per spingere ad andare a comprare in un centro commerciale rispetto a un altro. Naturalmente, e parlo anche della tutta la pubblicità che viene lasciata nei cassonetti, nelle raccogli di posta, nella posta. Sì, mi sembra che lei dica appunto. Postali, sì. Ecco. Una volta sì. Nel supermercato tutti quei tempi anche vengono rilasciati, specialmente poi per raccogliere l'interesse non tanto sul prodotto, ma spesso mi sono trovato vengono offerte raccolte punti per i bambini, per poi costringere, visto perché si deve poi continuare la raccolta punti per un determinato prodotto, ad andare in questo supermercato per poi finire, diciamo così, la raccolta iniziata. Emiliano, ho capito benissimo dove lei, diciamo, spinge. È evidente, ma credo che anche lei faccia della promozione per il proprio ristorante, quindi è evidente che ognuno, come si dice, tira il proprio carretto, e quindi di conseguenza la pubblicità esiste, è sempre esistita. Certo che può essere scorretta nei confronti dei bambini, perché sicuramente non è molto chiaro, ma visto avremo poi anche un macellaio e un pescivendolo per raccontare appunto certi trucchi della spesa, però volevo ricordare, visto che ci sono diversi ristoratori, che non si parla mai appunto del ristoratore che va a fare la spesa, non ci sono, come posso dire, dei premi, non ci sono dei voti. Allora io ho istituito un premio per 10 ristoratori che vanno a fare la spesa, e lo consegnerò il 3-4-5 a Milano durante Milano Golosa, perché credo che sia un fatto positivo che molti cuochi usino materie prime appunto del territorio senza arrivare al chilometro zero, ma vadano direttamente a fare la spesa e non usino i soliti, diciamo, distributori che ormai hanno omologato quasi tutte le carte dei ristoranti. Non so se Malinverno è d'accordo con me. Sì, sono d'accordissimo, perché insisto sempre che il rapporto con il produttore è fondamentale. Tante volte ci scambiamo anche per esempio il macellaio dove vado io mi dà delle idee anche su come cucinarla, ma è un scambio di idee, dopo o come non sprecare. Noi il discorso della conservazione, ci sono prodotti che è bello conservarli perché sono diversi dal prodotto fresco. Noi per esempio dei pomodori fare la nostra conserva che usiamo poi in cucina durante i mesi invernali dove non c'è, o le melanzane che ne abbiamo in abbondanza nel nostro orto e poi le trasformiamo, le mettiamo in vasetti e poi la serviamo, accompagnare i salumi o accompagnare degli antipasti o delle... In più anche il recupero di usare tutto proprio, perché quando si pulisce le verdure, le foglie del prezzemolo, le carote che taglio un pezzettino, si fa un brodo vegetale. Si usa un po' tutto, quindi è bello fare la spesa, è bello usare le materie prime fresche e in più trasformarle anche. Ecco. Grazie Malinverno, perché devo passare la linea alla regia, ma hai detto una cosa importante, questo rapporto che c'è del piccolo produttore, del macellaio, del pescivendolo, che dà delle idee anche al consumatore normale per poter fare dei piatti e magari alla fine anche risparmiare a fine mese. Grazie, linea alla regia, torneremo fra poco. Grazie anche a Parini. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare di spesa con consapevole. 800 24 0024 349 238 6666 per chi volesse intervenire. Aldo da Modena ci scrive: non ho il congelatore, non lo voglio, acquisto quel poco e lo consumo subito. Buona idea Aldo, ma non tutti possono farlo, perché forse lei tutti i giorni può andare a fare la spesa. Ma lo chiediamo a una casalinga. Abbiamo ospite una casalinga che abbiamo scelto a caso tra chi ci aveva scritto, ed è Giuseppina Cagliari Russo. Buongiorno Giuseppina. Buongiorno a voi, buongiorno, grazie di avermi contattata. Lei fa la spesa tutti i giorni? Io faccio la spesa tutti i giorni, ovviamente la spesa picciola, nel senso il pranzo, la cena. È chiaro poi che nella dispensa c'è sempre qualcosa per poter far fronte a, non so, una cena, un pranzo con amici o con amici di mia figlia, anche in maniera, diciamo, là per là, ecco. Però ha una tecnica particolare, il foglietto si scrive quando va a comprare. Il foglietto mi serve perché io ho poca memoria, quindi tendo a scordare, e quindi il foglietto è un promemoria, ecco, un piccolo promemoria, sì, scritto proprio a mano. Ecco, ma lei ha delle tecniche per cercare delle offerte, oppure invece va e poi, diciamo, improvvisa sul momento? Allora, l'idea della giornata c'è. È ovvio poi se capita l'offerta sul fresco, ben venga. Ovviamente non tengo conto di quelle offerte 3x2, 4x2, se non tranne che per prodotti, non so, pulizia della casa o pulizia della persona, ecco, perché poi mi capita spesso di dover gettare magari prodotti che scadevano e quindi preferisco non farlo più, ecco. Quindi lei è attenta alle scadenze? Sì, cerco. E il suo cestino di casa è ricco a fine settimana di spreco oppure è molto attenta? E allora, se faccio attenzione mantenendo questi principi, riesco a far poco spreco, proprio l'indispensabile. Alle volte mi capita di dover gettare anche qualcosa che nel frigo o è rimasta in fondo al frigo oppure l'ho dimenticata lì. Alle volte mi capita. Cerco però di non farlo capitare. Rimanga con noi perché ora andiamo in macelleria, andiamo a Romanengo da Franco Cazzamali. Buongiorno Franco. Buongiorno a tutti e grazie. Senti Franco, tu avrai tanta gente che viene appunto a fare la spesa. Ecco, la gente sceglie ancora il filetto e sceglie sempre di più di quello che poi utilizza a casa, oppure ti stai rendendo conto che qualcosa sta cambiando? Ma allora, innanzitutto qualcosa comunque sta cambiando. Qualcosa sta cambiando perché in tutti questi anni, voi per una cosa o per l'altra, abbiamo cercato comunque di diffondere quello che è la cultura. Nel mio caso la carne, praticamente l'animale, lo si compra una volta, lo si pesa, lo si lavora in 140 euro tipo. Ieri per esempio un signore dopo un'ora e mezza mi ha chiesto il cappello di prete, non ce l'avevo, ha preso qualcos'altro, ma questo è un fatto diciamo anche quotidiano, ed è un fatto che comunque bisogna cercare di trasmettere quello che chi mi ha preceduto ha continuato a dire, perciò di creare quel rapporto di fiducia che se anche uno vuole due fettine di filetto non c'è, di dare qualcos'altro comunque sostituibile e comunque buono. Ecco, la gente continua a chiedere sempre i pezzi diciamo anche più facili da cucinare, quindi, e chiede sempre il discorso sempre più magro, oppure c'è anche su questo c'è un cambiamento, diciamo che i tagli conosciuti stanno aumentando? Ma io credo che qua si stia dimenticando quello che aveva detto il signore che ha parlato per primo, praticamente la cucina matriarcale, il fatto che si dica o che ci viene detto che c'è sempre meno tempo in cucina, credo che non sia vero, perché se vogliamo andare a fare una giornata di svago, di andare in palestra, andare al parrucchiere, per l'amor di Dio, senza voler essere frainteso, che ben venga, però quando uno deve stare, una donna deve stare in cucina, allora bisogna cominciare a dire ma non c'ho tempo di qua e di là. C'è qualche piccola tendenza, quello sì, però io sto vedendo che ci sono la tendenza nello stare più in cucina e nell'utilizzare tagli, tra virgolette, meno conosciuti e cercare di conoscere di più come si fa a cercare di sprecare di meno. C'è una tendenza più verso l'uomo che verso la donna. 800 24 00 24 per chi volesse intervenire. Bene, ora abbiamo un maestro, uno che da tutti è considerato il maestro della spesa, anche se diciamo fa ristoratore ormai non so da tantissimi anni, però addirittura anni fa aveva istituito non un corso, ma portava i suoi clienti ai mercati alla mattina presto per insegnare a fare la spesa. Io credo che a questo signore bisognerebbe dare una cattedra. Buongiorno Aimo Moroni. Buongiorno, buon mangiare, buona domenica e a tutti, a tutti, eccomi qua. Potresti istituire dei corsi per imparare a fare la spesa? Ma io l'ho già fatto, mi ha fatto piacere sentire l'amico Gazzamali. Quando si va in macelleria, molte volte, io vado spesso in macelleria così, e diciamo sono un po' sorpreso e qualche volta un po' contrariato dal vedere la richiesta del magro, del filetto, del controfiletto. Pensate un po' che se noi facciamo in una famiglia dove vuol mangiare bene e non sprecare danari, si compra l'areale di un vitello, di un bovino, ma di un vitello va meglio, Franco sa cosa voglio dire, no? E fa dei bocconcini di vitello, l'areale costa due volte meno del filetto, forse qualcosa in meno ancora, o la punta di petto di vitello di una bestia nostrana che Franco sicuramente ce l'ha. Voi pensate che con una pentola a pressione, cerco di limitare i tempi perché so che se ne è da poco tempo in cucina, allora una pentola a pressione si mette questi bocconcini di vitello che possono essere di anteriore, del quarto davanti, si diceva una volta a Milano, no? Si fa dei bocconcini, si mette dentro, non so, Franco vi darà un osso col midollo, mettere dentro delle carote, il sedano, le verdure, come classicamente si fa, un goccio di vino, un po' d'olio. E dopo 25 minuti abbiamo un piatto sano, buonissimo, gustosissimo, quel sugo che poi ha una parte servirà per condire quello spezzatino, quel piatto che voi state mangiando, quello che rimane nel fondo della pentola, la sera, io piccola parentesi, in via Copernico, nel 55 in via Copernico, facevo la punta di vitello al forno, la servivo a mezzogiorno, il fondo di cottura che mi rimaneva la sera mettevo in carta tagliatelle al sugo d'arrosto e burro con grattata di parmigiano, era una meraviglia. E questo lo consiglio per esempio alle signore che magari vanno a prendere il filetto pensando che sia più buono. Non è vero, che da un punto di vista gustativo è più buono i bocconcini che ho detto io che non il filetto. Poi un'altra cosa, è più sano l'anteriore, c'è più movimento un anteriore di un bovino, di un suino, di un caprino, andiamo per carità anche del coniglio, no? Quello scendo agli estremi. La parte anteriore di un quadrupede da cortile, Franco lo sa queste cose, ma le sa anche Davide, è più sano, c'è più osso, più muscolo, più movimento, meno carne, più sapore, e il vantaggio è che è più sano anche dal punto di vista igienico e costa tre volte meno il filetto. Io, se mi lasciate un attimo, direi, esiste la patente per guidare la macchina, sa, per fare la spesa io istituirei un programma scolastico con 2 ore alla settimana di scuola, di cucina ai bambini sin dalle elementari, e fargli capire che il cibo non è solo qualcosa che serve per sopravvivere, per lavorare, per andare a produrre i tablet o l'auto Mercedes, no, serve anche, un medico di tanti anni fa diceva, l'alimento deve essere anche un medicamento, serve cultura e civiltà e piacere della vita, è un qualcosa che mangiamo, facciamo 2 volte al giorno per tutta la vita. E chi mangia la qualità, questo è un contemporaneo, un noto professore che tutti conosciamo, una volta mi ha detto, Aimo, la qualità fa vivere meglio e più a lungo. E la qualità lui la definiva la mia zuppa etrusca, voglio fare pubblicità da Imenaria, ma che è fatta di 3 legumi, cavoli, bieda, tante verdure cotte in coccio, senza nessun tipo di condimento, tranne che un filo d'olio crudo finale. Allora, senti, ci dai un esempio con un pesce? Una ricetta con un pesce, oppure, allora, il pesce ci vuole un po' di complicità quando si va tanto al supermercato con il fornitore che non al pescivendolo, dove io magari preferisco per una questione mia personale. E non si va dicendo il giorno prima domani faccio il branzino, si va domani mattina e si dice a Mauro, Giovanni, Francesco, Arturo, cosa è arrivato stamattina di fresco e di italiano. Allora, io premierei le alici di Monterosso, gli sgombri, quelli con la gaggia d'oro, e il pesce azzurro, magari le seppie invece del branzino, perché non è vero, la grande cucina, tutti sanno che non è ricca, povera, ma è buona, no? Non è vero che se uno mangia l'aragosta e il caviale e io mangio invece gli sgombri o le alici come faccio io e mangio una pasta gnocchi di patata al pomodoro, io ho mangiato altrettanto bene da un punto di vista, ma ho mangiato in modo più salutare, più igienico, in più ho speso una miseria. Ecco, la signora mi ha fatto piacere sentire una signora che ha detto io faccio la spesa tutti i giorni, perché fare la spesa, abbondare nel carrello oppure quando si va dal fornitore, finisce che si ha poi delle cose che perdono, ciò che è verde, per esempio le insalate, gli asparagi, i piselli, tutto ciò che è verde ha 24 ore di perfezione gustativa e nutritiva, dopo tutto ciò che è verde perde, quindi si compra e si consuma nella giornata. Grazie Aimo, perché devo passare la linea alla regia, ci hai così illuminato su moltissime cose e ti ringrazio anche l'idea di lanciare queste lezioni. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo sempre dall'Expo e parliamo di spesa consapevole. Bene, abbiamo con noi ora Fabio Suigo, che ha una pescheria nel mercato di Piazza Wagner. Allora, io a Fabio Suigo faccio la domanda che è un po' stata quella, diciamo, che ha lanciato Aimo Moroni. Ha detto, dice, andate in pescheria e chiedete, non fate tante domande, chiedete cosa c'è di fresco e di italiano oggi. Buongiorno Suigo, quante persone le fanno questa domanda? Buongiorno a voi. Innanzitutto è consuetudine, come diceva appunto lei, il pesce italiano è sempre quello più richiesto, un po' per un discorso anche il famoso chilometro zero, quindi si tende a consumare il prodotto ittico italiano, e non è neanche vero a volte quando dicono che l'Italia non è comunque una nazione che non ha più pesce. In realtà ce n'è tantissimo, sia pescato sia allevato in mare, quindi diciamo che insomma non dobbiamo lamentarci tutto sommato. Bene, volevo anche annunciare che proprio nella pescheria di Suigo al mercato di Piazza Wagner il giorno 21 di settembre faremo proprio una dimostrazione, una lezione assieme a lui di spesa consapevole, quindi chi volesse intervenire può venire benissimo. Ma voglio anche sentire Maria Teresa dalla provincia di Modena, una radioascoltatrice. Buongiorno Teresa. Buongiorno, mi scusi, sento pochissimo. Comunque io volevo dire che sono d'accordo, io sono un insegnante in pensione e sono d'accordissimo con chi ha sostenuto che bisognerebbe insegnare di nuovo l'economia domestica a scuola, e anche per quanto riguarda l'alimentazione, in particolare nella scuola elementare. Io ho insegnato in una scuola a tempo pieno e ci facevamo la merenda, diciamo, da soli, cioè le insegnanti insieme ai bambini, e in questo modo, oltre a conoscere i vari alimenti, però si faceva anche diciamo matematica, italiano, i solidi, i liquidi e tutte le cose che riguardano anche le varie materie scolastiche. Bene, bisognerebbe riproporle, come anche lei sarà d'accordo che bisogna riproporle, giustamente. Ma continuiamo a parlare di pesce, perché ora andiamo a Metauriglia di Fano, andiamo da un ristoratore molto particolare, perché anni fa aveva organizzato assieme al mercato del pesce di Fano un'idea molto interessante che credo però si sia persa. Però Cerioni, vediamo di riproporla questa idea, perché magari in qualche altra parte d'Italia si possono farla loro. Buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Sì, è vero, si chiama perché esiste ancora, anche se, come dire, lavora poco, Scirocco 36, ed è un marchio di qualità sul pescato dei pescherecci della regione Marche, in cui noi davamo la certezza che il pesce doveva essere consumato entro le 36 ore dal momento del passaggio al mercato ittico. Ma oltre a questo davamo anche come input il fatto di consumare tutto quel pesce che non mi piace chiamarlo povero, mi piace chiamarlo massivo, cioè tutto quel pesce che in certi periodi dell'anno ne viene pescato in quantità talmente elevata che il mercato non riesce a recepire. Per cui, ecco, una spesa consapevole è proprio quella di mangiare queste tipologie di pesce. Adesso stanno per riaprire la pesca in Adriatico, avremo una montagna di triglie, per cui, ed anche di qualità eccezionale, anche perché il periodo di quelle triglie, questo periodo, sono le triglie più buone di tutto il periodo dell'anno, e in una quantità veramente eccezionale, ad un costo bassissimo, veramente. Sfioriamo i 2 euro al chilo, per cui... Bene. Ecco, questo secondo me è un modo di fare una spesa consapevole. Beh, torno da Suigo. Suigo, voglio, per curiosità, qual è il pesce più richiesto nella sua pescheria? Ma dunque, diciamo che alla fine si segue un po' la moda, quindi quando nei vari ristoranti si va a mangiare il famoso branzino al sale, piuttosto che gli scamponi, piuttosto che la frittura mista, ecco, questo poi viene riproposto nei negozi, quindi il cliente è abituato a scegliere dei piatti che già conosce. Spesso e volentieri nel mio negozio consiglio magari dei pesci, io definisco molto buoni ma un po' sconosciuti, e le persone magari rimangono un po' così, insomma, si domandano ma sarà buono, che sapore avrà, perché comunque non hanno la cultura di conoscere esattamente anche le proprietà organolettiche del prodotto, e quindi si fa fatica, però devo dire che facendolo conoscere si ha un risultato positivo, cioè tornano e lo ricomprano, insomma. Ecco, Suigo, cosa bisognerebbe fare per far conoscere appunto questa parte del pescato che inciderebbe sicuramente molto meno nella borsa della spesa, no? Non solo, ma che non vi farebbe fare a voi, secondo me, delle cose che rimangono lì, perché ci sono molti pesci che immagino che poi alla fine vi rimangono sul groppone, visto che la gente non li conosce. Certo, ma sicuramente una pubblicità magari maggiore sui quotidiani nazionali sarebbe la cosa più giusta, e poi magari con una sorta di istruzione già, come diceva forse la signora di prima, già dalle scuole, cioè far conoscere attraverso opuscoli o comunque situazioni informative tale per cui già i ragazzi così possono orientarsi in maniera più giusta, ecco. E torniamo da Cerioni. Io credo che Cerioni, anche da lei al suo ristorante La Lanterna, ci sia questo problema, che la gente arriva, se lei non si lasciano consigliare da lei, tutti chiedono 3 o 4 pesci, cioè gli unici che conoscono. Certo, infatti io ho vergato un piccolo detto: bisognerebbe mangiare ciò che si pesca e non ciò che si vorrebbe che si pescasse. In effetti ha ragione il signore della pescheria, tantissimi chiedono la spigola, chiedono gli scampi, sicuramente è un pesce molto buono, pregiato, ci mancherebbe, non possiamo non dire che non siano buoni, però sta forse proprio a noi, oltre che a come diceva prima il signore, a delle informazioni anche cartacee o via web o anche a scuola, ma sta secondo me ai ristoratori, che siamo i primi promotori dei prodotti. Sta a noi forzare un pochettino la mano al consumatore, all'ospite che si presenta da noi, ed indicargli come massima qualità, perché magari è proprio quello pescato da poche ore, oserei dire da pochi minuti, il pesce è, come dire, di stagione, quello che in quel periodo ci costa il giusto, ma dà grande soddisfazione anche al palato. Qui noi dobbiamo farci promotori di questo. Lei ha toccato un tasto veramente interessante, di stagione. Bene, io credo che 9 persone su 10 che vanno a fare la spesa non sanno che anche il pesce ha una sua stagionalità. Vero, Suigo? Sì, ha detto una cosa molto giusta. Diciamo, come diceva prima il nostro amico ristoratore, adesso tra un po' aprirà tutto l'Adriatico, quindi arriverà veramente tantissimo pesce. Però è curioso anche andare a vedere su internet, lo potete fare tutti, se voi digitate pesce di stagione, lei troverà da gennaio a dicembre, non so, la triglia, il polpo, il moscardino, cioè, quindi la gente rimane anche un po' confusa perché dice, certo, ma come? Se è di stagione perché me lo trovo tutto l'anno? Ecco, quindi anche qua c'è molta confusione. E poi non ricordiamoci che, parlo per la mia pescheria, quindi diciamo al centro di un grande mercato ittico all'ingrosso europeo importante, noi abbiamo la fortuna, noi che abitiamo a Milano e dintorni, di avere una varietà di pesce pazzesco proveniente oramai da tutto il mondo, perché intendo pesce anche congelato, chiaramente gamberi che arrivano dall'Argentina piuttosto dell'ottimo cuore di merluzzo che arriva dai mari del nord, cioè, quindi voglio dire, qua da noi a Milano veramente chi viene nella mia pescheria e anche in altri colleghi ha veramente l'imbarazzo della scelta. Grazie Suigo, grazie Cerioni. Io niente, vi do un'informazione: dalla prossima settimana mi troverete al sabato pomeriggio e ne più alla domenica alle ore 12. Buona domenica a tutti da Davide Paolini.